La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Nella prima parte di questa puntata, Dino Pesole dedica il suo approfondimento alla conferenza di Bretton Woods del luglio 1944. Ospite ai nostri microfoni Marcello De Cecco, professore ordinario di storia della moneta e della finanza alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Nella seconda parte vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulla nascita e la presa del potere del fascismo in Italia. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. La grave crisi dei mercati finanziari mondiali, in atto ormai da settimane, potrebbe indurre tra breve i capi di Stato e di Governo dei maggiori paesi industrializzati del mondo alla riscrittura delle regole che governano il capitalismo globale. Si lavora a una riunione straordinaria del G8, probabilmente allargata alle economie emergenti, tra cui Cina, India e Brasile. Pur tra non poche resistenze, in particolare degli Stati Uniti e del Giappone, si potrebbero porre le basi per una nuova Bretton Woods, una conferenza internazionale cui affidare il compito di aggiornare il complesso di regole e strumenti messe in campo 64 anni fa nell'omonima cittadina americana del New Hampshire. La conferenza internazionale monetaria e finanziaria, che si tenne dal 1 al 22 luglio, stabilì le regole per le relazioni commerciali e finanziarie tra i principali paesi industrializzati del mondo. Gli accordi di Bretton Woods costituirono il primo esempio nella storia di un ordine monetario totalmente concordato. Con il secondo conflitto mondiale ancora in corso, si preparò la ricostruzione del capitalismo globale. Al Mount Washington Hotel di Bretton Woods affluirono 730 delegati provenienti dalle 44 nazioni alleate. Dopo 3 settimane di difficili negoziazioni, fu approvato e sottoscritto il testo degli accordi di Bretton Woods. Venne istituito il Fondo Monetario Internazionale e nacque la Banca Mondiale, con l'obiettivo di tutelare l'ordine monetario globale e favorire la ricostruzione dopo l'immane disastro della guerra. Venne introdotto l'obbligo per ogni paese di adottare una politica monetaria che stabilizzasse il tasso di cambio a un valore fisso rispetto al dollaro, eletto così a valuta principale. Il risultato più rilevante della conferenza fu l'approvazione degli Articles of Agreement, lo statuto del costituendo Fondo Monetario Internazionale, punto di arrivo del lungo dibattito tra gli Stati Uniti e il Regno Unito sul ruolo del dollaro, della sterlina e dell'oro, sulla consistenza della liquidità internazionale, sul regime dei cambi e del commercio internazionale. Nel difficile contesto politico ed economico del dopoguerra si trattò di un essenziale punto di riferimento per la nascente cooperazione economica internazionale. Grande regista degli accordi di Bretton Woods fu John Maynard Keynes, fu proprio il grande economista inglese a chiudere i lavori della conferenza. Sento come un particolare onore quello di essere invitato a chiedere l'accettazione dell'atto finale di questa memorabile conferenza. Noi delegati abbiamo cercato di realizzare qualcosa di molto difficile. L'abbiamo fatto non per il nostro piacere, ma per trovare la soluzione più favorevole ai nostri interessi particolari. Il nostro compito è stato di individuare una misura comune applicabile a tutti. Abbiamo lavorato in un campo di grande difficoltà intellettuale e tecnica. Abbiamo dovuto assolvere nello stesso tempo i compiti propri dell'economista, del finanziere, del politico, del giornalista, del propagandista, del giurista, dell'uomo di Stato e credo perfino del profeta e dell'indovino. Abbiamo raggiunto un punto decisivo. Dobbiamo partire da qui come missionari, ispirati da zelo e fede. Qui, a Bretton Woods, abbiamo mostrato che un'assemblea di 44 nazioni può realmente collaborare a un compito costruttivo in piena concordia. Pochi ritenevano che fosse possibile. Abbiamo imparato a lavorare insieme. Se continueremo a farlo, l'incubo nel quale la maggior parte dei presenti ha speso troppa parte della sua vita svanirà. Il risultato ottenuto fu di grandissima importanza, ma il piano originario elaborato da Keynes, che prevedeva la creazione di un'unione di compensazione internazionale con una propria moneta, il Bancor, era stato drasticamente rivisto. Tuttavia, scrive Roy Harold nella sua Vita di John Maynard Keynes, aver elaborato una nuova teoria che determinò la natura del pensiero economico della nuova generazione in due grandi nazioni, aver ideato proposte concrete di collaborazione internazionale, costituì un successo del quale sarebbe difficile individuare un paragone. Di fatto, l'impianto di Bretton Woods resse fino al 15 agosto del 1971, quando Richard Nixon annunciò a Camp David la decisione di sospendere la convertibilità del dollaro in oro. Finiva così l'era del liberismo controllato, che aveva garantito il sistema economico mondiale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo in linea il professor Marcello De Cecco, che è professore ordinario di storia della moneta e della finanza alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito, prima di tutto. Grazie per avermi invitato. Allora, la crisi finanziaria in atto e l'ipotesi di una Bretton Woods seconda, si potrebbe dire. Ecco, intanto ci dica qual è la sua valutazione intanto sulla prima conferenza di Bretton Woods. Ma la conferenza di Bretton Woods è una cosa, il sistema poi che si chiama di Bretton Woods, che è durato fino al 1971, è un'altra cosa, e questo non è senza importanza, perché molte cose che erano previste dalla conferenza e quindi nell'accordo di Bretton Woods poi sono state modificate per via degli eventi che si sono modificati, anche specialmente per il fatto che il principale gestore del sistema di Bretton Woods, cioè gli Stati Uniti, non ha mai veramente voluto lasciare il proprio unilateralismo nel decidere la politica economica interna, che è quella che fa la politica economica estera di tutto il resto del mondo, e allora la faceva ancora di più perché gli Stati Uniti a quel tempo avevano il 50% della produzione industriale mondiale. Lei ritiene, professore, che oggi ci siano le condizioni per, alla luce della grave crisi finanziaria in atto, per avviare, diciamo, le premesse per una nuova Bretton Woods? Ma la cosa è, bisogna dire che negli ultimi 4-5 anni ci sono alcuni miei colleghi, cioè professori e anche economisti di banca americani, che hanno messo in circolazione l'idea che in effetti gli ultimi 10-15 anni hanno visto una ripetizione della Bretton Woods pre-1971, col fatto che i paesi asiatici hanno accumulato riserve invece di voler rivalutare la propria moneta per continuare a esportare negli Stati Uniti in maniera concorrenziale, dipendendo fortemente dal mercato americano. E loro dicevano che questa cosa poteva durare fino a quando ci sarebbe stata disoccupazione, per esempio in Cina, quindi una cosa di lungo periodo. Questo sembra purtroppo o per fortuna essere già finito, perché i cambi di questi paesi si sono mossi adesso. Quindi questa è la prima accezione della seconda Bretton Woods. La seconda Bretton Woods di cui si parla in questi giorni invece è un'altra cosa, e cioè si pensa che quello sfascio della crisi finanziaria internazionale attuale determini la necessità di avere un altro accordo, e qui ci sono due versioni. La versione inglese che dice che bisogna fare un accordo di manutenzione straordinaria e anche trasformazione di come funziona il sistema finanziario internazionale, la finanza internazionale che ha avuto tutti questi problemi, le banche eccetera eccetera. Invece la visione tradizionale europea e anche forse di altri paesi come la Cina e il Giappone è che bisogna fare un nuovo sistema monetario internazionale che sia policentrico invece che essere monocentrico, cioè qui si dice che gli Stati Uniti non possono più essere il creatore dell'unica moneta di riferimento, non possono essere il paese che non ha un problema di bilancio dei pagamenti per definizione, e quindi bisogna discuterne e tirare fuori uno schema come si fece quella volta a Bretton Woods. Gli Stati Uniti hanno già fatto sapere che il loro sistema se lo decidono da sé, e quindi non almeno questa amministrazione, però questa sta uscendo. La storia e la memoria. Bentornati alla Storia e la Memoria. Ora vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulla nascita e la presa del potere del fascismo. In mezzo alla folla che acclama Mussolini in Piazza Venezia c'è anche Mario Piazzesi, un fascista come tanti altri. Appartiene a quella generazione di italiani che vede nel fascismo una forza rivoluzionaria capace di trasformare il paese. Per più di 20 anni Mussolini dà vita a questa illusione. Mario è tra quelli che ci credono fino all'ultimo. Poi l'illusione svanisce. Mussolini è giustiziato e il suo corpo appeso a testa in giù. Per capire come il fascismo sia riuscito a conquistare un così gran numero di italiani, bisogna leggere il diario di Mario Piazzesi. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, l'Italia è un paese sconvolto. In un clima di tensione e instabilità crescente, Mussolini fa la sua comparsa sulla scena politica. In quell'epoca, Mario ha appena 17 anni. Nel suo diario ci sono le pulsioni, gli ideali, le violenze di tutta una generazione di giovani. Come per molti ragazzi della sua età, Mario conosce la guerra attraverso i racconti del padre, ufficiale dell'esercito. Per la gran parte dei soldati italiani, la guerra contro l'Austria è stata un'esperienza traumatica che ha lasciato un segno profondo. I 3 anni e mezzo trascorsi al fronte, sulle montagne del Carso, a combattere in trincea, hanno formato in molti soldati la convinzione di essere degli uomini diversi che hanno conosciuto la morte e l'orrore. In Mario e in tanti suoi coetanei, la vittoria contro l'Austria ha alimentato la fantasia e creato dei nuovi miti. La patria, la nazione. L'11 novembre del 1918 è la fine della guerra. Con una mentalità e uno Stato ancora nell'Ottocento, l'Italia si ritrova improvvisamente catapultata in pieno Novecento, nel secolo della società di massa. L'Italia ha vinto la guerra, ma il prezzo pagato in vite umane è altissimo. Una grave crisi economica si abbatte su tutto il paese. I ceti medi, gli impiegati, i piccoli proprietari sono i più colpiti. Gli operai e i contadini corrono tutti a ingrossare le fila di quei partiti che s'erano opposti alla guerra. Il Partito Socialista su tutti. Agosto 1919. Passiamo con Carlo, con Giovanni, con Bruno, con gli altri compagni lunghe ore a discutere, a leggere i giornali di tutte le tinte. Che il nostro nazionalismo non sia altro che un prodotto dell'ambiente borghese. E la Russia, nonostante i suoi errori e le stragi di cui ci giungono notizie, non potrebbe indicare forse una nuova era all'umanità? Piangendo m'ha donato il tricolore, il bianco ha detto il pianto più versato, il rosso è tutto il fuoco del mio amore, e il verde è la speranza che un dì ritornerai. Il 1919 si apre con la visita trionfale in Italia del presidente americano Wilson, che riaccende le speranze di una popolazione duramente provata. Wilson è atteso a Parigi, dove si apre la conferenza di pace che deve ridisegnare il volto dell'Europa. L'Italia siede al tavolo dei vincitori. Le sue richieste sono note: le terre adriatiche della Dalmazia e la città di Fiume. Dopo mesi di trattative, l'Italia non ottiene quello che rivendica. Il presidente del Consiglio, Orlando, abbandona Parigi. Di ritorno a Roma, Orlando è accolto da una folla di fanatici nazionalisti. Ma nella grande maggioranza dell'opinione pubblica sono altre le priorità. Tra i contadini e gli operai, la parola d'ordine è occupazione. I contadini hanno fame di terra. Gli operai avviano i primi tentativi di introdurre i soviet nelle fabbriche. È l'onda della rivoluzione bolscevica. Agosto 1919. Da luglio ci siamo iscritti nella sezione studentesca dell'Alleanza di Difesa Cittadina. Da tempo le varie associazioni, chiamiamole patriottiche, avevano avvertito il caos nel quale stava sprofondando la nazione tutta. Poiché l'obiettivo dei rossi sembra essere il disordine per il disordine, l'odio per il gusto di odiare, il dare la morte per il sadico gioco di scannarsi. Le tensioni sociali che scuotono l'Italia permettono ai lavoratori di ottenere importanti miglioramenti, la giornata lavorativa di 8 ore, aumenti salariali e il riconoscimento della rappresentanza sindacale. Paghi dei risultati ottenuti o forse privi della determinazione necessaria, gli operai e i contadini demordono. 12 ottobre 1919. Del nostro gruppo solamente Carlino è andato alla riunione al Teatro Olimpia e ci ha raccontato che si è trattato dell'adunata dei fasci di combattimento. ma benché fossero apparsi sui muri dei manifesti, annunciando il raduno al quale avrebbe partecipato quel Mussolini del Popolo d'Italia e il fondatore del Corpo degli Arditi, un certo Vecchi, nella sala si contavano 4 gatti. Chi è questo Mussolini di cui parla Mario? Benito Mussolini è giornalista a Milano. Fino al 1914 è stato direttore dell'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. Ma favorevole all'entrata in guerra dell'Italia, viene espulso dal partito. Nello stesso anno allora fonda il Popolo d'Italia, un quotidiano di ispirazione socialista, ma interventista, patriottico. Che cosa è accaduto in questi anni di guerra? Mussolini ha sperimentato la vita nelle trincee. Comprende che la gran massa dei soldati in guerra rappresentano una forza nuova, capace di far rinascere l'Italia. Intorno a lui si forma un eterogeneo gruppo composto da ex combattenti, sindacalisti rivoluzionari, futuristi, socialisti dissidenti, lettori esaltati dalla linea del giornale. Sono costoro che rispondono all'appello di Mussolini e partecipano il 23 marzo del 1919 alla creazione dei fasci di combattimento, la prima cellula del fascismo. La durata del 23 marzo rivolge il suo primo saluto e il suo memore e reverente pensiero ai figli d'Italia che sono caduti per la grandezza della patria. Mussolini non sa ancora cosa fare dei fasci di combattimento. Non un partito, forse un movimento d'opinione. Il programma dei fasci, influenzato dal movimento futurista, propone la ridistribuzione dei profitti di guerra, delle terre non coltivate ai contadini, la scuola di Stato a carattere laico e infine la proclamazione della Repubblica. Un programma di sinistra che punta a modernizzare l'Italia. L'attenzione di Mussolini verso gli ex combattenti attira nel suo movimento la simpatia degli Arditi, le truppe d'assalto della Prima Guerra Mondiale, uomini coraggiosi, sprezzanti della morte, insofferenti della disciplina. Il 15 aprile a Milano, approfittando di uno scontro tra scioperanti e polizia, un comando composto da Arditi, futuristi, fascisti, assale e incendia la sede dell'Avanti. L'azione è condotta con criteri militari, non diversi da quelli usati in guerra contro il nemico. È l'atto di nascita dello squadrismo fascista. Sul suo giornale, Mussolini approva l'uso della violenza contro quello che lui chiama il ricatto leninista. 14 giugno 1920. Ho seguito Carlo e Tito a malincuore e solo quella certa promessa, vedrai, questa è gente seria, mi ha fatto decidere ad abbandonare l'ultimo episodio del film Zanna Bianca. Nella sala semivuota, noi nuovi siamo squadrati uno ad uno dai vecchi. Prende la parola un tenente degli Arditi e spiega il programma dei fasci di combattimento. Non ha molto interesse per noi ragazzi la questione del suffragio universale, del voto alle donne. Quello che comincia a farci rizzare le orecchie è l'abolizione del Senato. Basta con questi rincoglioniti tabaccosi. L'Ardito sbraita che si debbano formare le squadre dell'intervento. Squadre di 8-10 uomini, con a capo un Ardito. E quando arriva un corteo rosso, gli si tira dentro 2 o 3 sipe e dopo il lancio si lavora di pugnale. In un clima di vittoria mutilata, il governo italiano non prende alcuna iniziativa. È Gabriele D'Annunzio che occupa la scena pubblica. Nel primo dopoguerra, lo scrittore è il personaggio più popolare d'Italia. Al comando di circa 2000 soldati volontari, detti legionari, D'Annunzio parte alla conquista di Fiume, la città che l'Italia rivendica. Senza incontrare alcuna resistenza, D'Annunzio entra a Fiume e la dichiara annessa al Regno d'Italia. Sul suo giornale, Mussolini sostiene l'impresa di Fiume. La tiratura del Popolo d'Italia aumenta. Le prime elezioni del dopoguerra si avvicinano. Mussolini ne approfitta per portare i fasci di combattimento sulla scena politica. La storia e la memoria. Continua il documentario in collaborazione con History Channel dedicato alla nascita del fascismo. Le prime elezioni del dopoguerra si avvicinano e Mussolini ne approfitta per portare i fasci di combattimento sulla scena politica. Ma un'incredibile sconfitta lo costringerà a cambiare i suoi piani. Per contrastare il Partito Socialista e il Partito Popolare, Mussolini tenta di costruire delle alleanze con le piccole formazioni di sinistra. Ogni tentativo fallisce. I fasci di combattimento si presentano da soli alle elezioni. La sconfitta è totale. Umiliato, Mussolini attraversa una grave crisi. Si rende conto che a sinistra non troverà mai uno spazio per il suo movimento. Superata la tentazione di abbandonare la politica e di vendere il suo giornale, Mussolini volge allora il suo sguardo a destra, uno spazio politico più facile da conquistare. Mobilita i suoi fasci di combattimento sul terreno del capitale e di difesa della proprietà. È un grande successo. Mario e i suoi amici Carlo e Tito si iscrivono alla sezione dei fasci di combattimento di Firenze. Sono pronti ad ogni avventura, ad ogni violenza. Sono questi i volti dei primi squadristi. Uomini attempati, ex combattenti che non riescono ad adattarsi a una vita normale, civile, e tanti giovani, molti ancora minorenni, pronti a imparare le tecniche di guerra e gli stili di violenza per affermare la loro identità, il loro gusto per l'azione, il loro amor di patria. La squadra di Mario prende il nome di La Disperata. 30 gennaio 1921. In quest'ultima settimana le aggressioni si sono rincrudite tanto che per tornare a casa ci si riunisce in gruppetti secondo il rione dove si abita. E si sta in pena per quello che deve rientrare per ultimo. E sono così tesi gli animi che non provo nessuna sorpresa quando Carlo mi blocca con due occhi spiritati. Vieni a sentire, domani si incendia la camera del lavoro, te lo dico io. Dopo un anno di occupazione, Fiume, sotto la guida di D'Annunzio, è diventata un ricco laboratorio di idee. Il poeta vuole ora marciare su Roma ed esportare il modello di democrazia diretta sperimentato a Fiume. Cerca l'aiuto di Mussolini e dei suoi fasci di combattimento che si sono rafforzati in tutta Italia. Mussolini percepisce nell'opinione pubblica una certa stanchezza nei confronti dell'impresa d'annunziana. Rifiuta di appoggiare il progetto di marciare su Roma. Nel dicembre del 1920 è la fine di ogni illusione. Il governo italiano firma il trattato di Rapallo. Invia l'esercito e libera Fiume. 30 dicembre 1920. Sento qualcosa che si sfalda dentro il mio cuore. Fiume è caduta. Dopo un anno di passione, i legionari sono stati cacciati come cani dalla città senza pace. Il mancato appoggio a D'Annunzio fa acquisire credibilità a Mussolini e al fascismo agli occhi dell'opinione pubblica borghese. Il 1921 è l'anno decisivo per l'affermazione del fascismo. I fasci passano da poche migliaia a 250.000 iscritti. Il fascismo mostra il suo volto più spietato, più violento. È il fascismo agrario, il fascismo dei proprietari terrieri, vendicativo, senza controllo. Negli scontri fra socialisti e fascisti, l'obiettivo è la distruzione del sistema delle leghe cooperative, divenuto intollerabile per gli agrari. Di fronte a tanta violenza, le forze socialiste reagiscono con durezza e altrettanta ferocia, ma nulla possono contro l'organizzazione militare delle squadre. Mussolini riesce a far percepire il fascismo come un movimento d'ordine e si avvia a inserirlo nella politica nazionale. Di questa nuova creatura che si sta costruendo, ma di cui non si conosce ancora la vera natura, la gente è attratta ma ne ha anche paura. 10 aprile 1921. I conflitti degli ultimi tempi, tutti questi morti, hanno scosso i miei poveri nervi. Troppo sangue, troppa crudeltà, troppi corpi esanimi stesi lì davanti all'improvviso, che se chiudo gli occhi me li vedo turbinare davanti, nei gesti scomposti come la morte li ha sorpresi. Ritornano i soliti interrogativi. A chi risale la colpa? È la funesta eredità della guerra, come sostengono i socialisti, che ha reso perversi e insensibili gli animi di tutti? È colpa del governo, dei capirossi o delle classi dirigenti? Forse la colpa è di tutti quanti messi insieme. Occorre lottare, combattere, fare, come ha detto quel Mussolini in un discorso a Bologna. Nonostante l'escalation della violenza, l'esercito non interviene. Continuamente insultati e scherniti dalla gente per strada, i militari ora vedono i fascisti accorrere in loro difesa. Gli squadristi entrano ed escono dalle caserme con fucili in dotazione ai carabinieri. Le forze dell'ordine assistono ai pestaggi senza reagire. Il fascismo è oramai uno strumento di repressione, chiamato in occasione di agitazioni, scioperi, elezioni. Al diffondersi del fascismo su larga scala, la sinistra non trova la forza per reagire. Ha scatenato scioperi e occupazioni nel paese, ma non ha compiuto la tanto attesa rivoluzione proletaria. Nel gennaio del 21 il Partito Socialista si riunisce a congresso a Livorno. L'Internazionale Socialista spinge perché l'ala massimalista prenda il sopravvento nel partito. I riformisti resistono, indicando una via più aperta al compromesso con le altre forze politiche. All'interno del Teatro Goldoni, gremito di delegati, si passa alle votazioni. I comunisti ottengono un terzo dei voti. Decidono di uscire dal Partito Socialista e di fondare il Partito Comunista Italiano. Mussolini comprende che la crisi dei socialisti è una straordinaria opportunità per far entrare i fascisti in Parlamento. Nei mesi che precedono le elezioni del maggio del 21, Mussolini è infaticabile nel volere accreditare il fascismo nelle istituzioni. Dialoga con i poteri economici e industriali. Grazie a un accordo con i conservatori dei blocchi nazionali, Mussolini e 34 deputati fascisti entrano nel Parlamento italiano. Mussolini è euforico. La sua creatura ha avuto finalmente un riconoscimento politico. Facendolo entrare nelle istituzioni, la classe dirigente pensa di poter normalizzare il fascismo. Se è ancora marginale nelle sfere del potere, il fascismo è sempre più presente nella società. Al cinema appare in un film il personaggio di Balilla, un adolescente che sa parlare agli uomini, sa trasmettergli il senso del dovere, dell'impegno e dell'onore. Un esempio di fermezza d'animo e gioventù, care al fascismo. La vera struttura che regge il fascismo sono i capi locali, detti i RAS, che controllano le squadre. In questi anni nessuno, né i socialisti, né i popolari, né i liberali, si rende conto di cosa sia il fascismo. Non sembra averlo capito neanche Mussolini, quando propone, una volta entrato in Parlamento, un patto di pacificazione tra i rossi e i fascisti. 4 agosto 1921. La bomba è scoppiata con grande fragore. A Roma è stato firmato il patto di pacificazione tra noi e i sovversivi. Così abbiamo steso la mano a quelli che finora hanno pugnalato alla schiena la nazione, agli assassini dei nostri camerati, dei nostri ragazzi che non avevano più di 18-20 anni. Tutto questo mi sembra pazzia. Di fronte a questa rivolta, il disegno di Mussolini resta chiaro. Trasformare il movimento fascista in partito, in grado di diventare protagonista della vita pubblica italiana. Il fascismo è a un bivio. O diviene una forza politica, o è destinato a sparire. Al congresso di Roma del 7 novembre del 1921, Mussolini ha due nemici da combattere. Sul fronte interno, contro le squadre di provincia. Indisciplinate e violente, rifiutano l'idea di un partito che significherebbe disciplina, organizzazione, gerarchia. Sul fronte esterno, contro alcuni settori delle istituzioni che cominciano a nutrire sospetti davanti alle violenze fasciste. Da abile manovratore, Mussolini vince sui due fronti. Nel suo discorso al congresso fa un esplicito riferimento a un'imminente marcia su Roma che riaccende l'entusiasmo degli squadristi. I delegati votano per la costituzione di un partito che rassicura le istituzioni. Così, il 7 novembre del 1921 nasce ufficialmente il PNF, il Partito Nazionale Fascista. Con la nascita del PNF, le squadre temono che lo spirito rivoluzionario si indebolisca negli intrighi della capitale. Una nuova ondata di violenze s'abbatte su tutta l'Italia. Mario e la sua disperata organizzano nuove spedizioni punitive per riaffermare l'identità del fascismo. Lo Stato, con le sue istituzioni democratiche, è messo a dura prova. La sua azione è incerta, poco efficace. Solo le confederazioni sindacali, il Partito Socialista e Comunista reagiscono e proclamano uno sciopero generale detto legalitario. 9 agosto 1922. Così, il 1 agosto, l'Italia ripiomba più che mai nel marasma, dopo alcuni mesi in cui la guerriglia sembrava essersi sopita. Sciopero generale da parte loro, mobilitazione da parte nostra. Firenze, Bologna, Ferrara non danno più fastidio. A Milano, in Liguria, a Parma e Ancona, dove il fascismo non si è potuto ancora insediare, la lotta è dura e sanguinosa. Ora tutti vengono a noi, e come è vero quel detto, la vittoria ha molti padri, mentre la sconfitta è orfana. Abbiamo due governi, due stati, nella stessa nazione. L'ossessione di Mussolini è quella di far entrare i fascisti al governo nel più breve tempo possibile. La congiuntura è favorevole, ma il peso del partito fascista è ancora scarso. Mussolini è cosciente che il quadro potrebbe mutare da un momento all'altro. Deve fare in fretta. La destra al potere gioca la sua ultima carta. propone a Mussolini un governo di coalizione che darebbe ai fascisti qualche ministero. Mussolini rifiuta ogni accordo e, per dimostrare le forze a sua disposizione, convoca una grande adunata fascista a Napoli e annuncia l'imminente preparazione della marcia su Roma. I fascisti arrivano a Napoli da tutta Italia, felici di poter sfilare uniti, orgogliosi di ostentare il nome della propria squadra, la Me ne frego, la Disperata, la A noi. Mario, con tutte le camicie nere, è pronto a marciare su Roma. Mussolini vuole una soluzione politica, non un colpo di Stato, per la conquista del potere. Sa che l'opinione pubblica è matura per un'esperienza di governo fascista, ma non sa quale sarà la reazione delle forze politiche né quale sarà il comportamento del re e quindi dell'esercito. La marcia su Roma deve essere la prova che il fascismo è una forza con la quale bisogna fare i conti. Di fronte alla richiesta del capo del governo di dichiarare lo stato d'assedio, il re Vittorio Emanuele III indugia. Luigi Facta, il capo del governo, si dimette. Tutti i tentativi di formare un nuovo governo falliscono, cosicché la sera del 30 ottobre Benito Mussolini, nuovo presidente del Consiglio, sale al Quirinale con la lista del suo primo governo. 31 ottobre 1922. Al monumento al milite ignoto, sfilato dalla bocca del fucile un garofano, lo lanciai tra gli altri. E il cadere di quel fiore rosso mi fece pensare a lungo alla vita pazza e stordente degli anni di lotta, ai camion, alla polvere bianca delle strade del Valdarno. Che ne sarebbe stato della squadra, della nostra creatura che amavamo più forse di noi stessi? E i compagni? Si sarebbero sparsi nella vita comune, caduti nel dimenticatoio, ignorati dai più. Certo, mia madre avrebbe finalmente finito di penare. Quanta ansia, quanti terrori le avevo dato in questi anni. Dopo la marcia su Roma, Mario termina i suoi studi di ingegneria. In seguito entrerà nelle istituzioni fasciste, intraprendendo una carriera di federale di provincia. Nominato in Sicilia, poi in Toscana, non otterrà mai responsabilità a livello nazionale. Un fascista senza storia. Prima di chiudere, vi segnaliamo che questo documentario sarà trasmesso venerdì 31 ottobre alle 21 su History Channel, col titolo Diario di un giovane fascista. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte. Il radiodocumentario prosegue subito dopo gli aggiornamenti sul traffico. Restate con noi. La storia e la memoria torna tra poco. Restate con noi.